Sura 96esima. Al-Alaq. L'aderenza. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Leggi. In nome del tuo Signore che ha creato. Ha creato l'uomo da un'aderenza. Leggi che il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato mediante il calamo, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. Invece no, in vero l'uomo si ribella, appena ritiene di bastare a se stesso. In verità il ritorno è verso il tuo Signore. Hai visto colui che proibisce al servo di eseguire l'orazione? Pensi che segua la guida che comandi il timore di Allah? Non pensi piuttosto che rinneghi e volga le spalle? Non sa che in vero Allah vede? Stia in guardia. Se non smette, noi lo afferreremo per il ciuffo mendace peccaminoso. Chiami pure il suo clan. Noi chiameremo i guardiani. No, non gli obbedire, ma prosternati e avvicinati.